Allora, come si trova Tione? Ma io non sono di Tione. Massimo, noi lei abitiamo com'è? A Bolbeno, ma veniamo a Tione sempre. Beh, sempre di zona. E sì, come vi trovate? Benino, bene. Però hanno chiuso tanti negozi, attività. A Tione che vorrei un po' più di vita. È regredito. Soprattutto poco. Per voi. O no? Sì, sì. E cosa ne pensate dei giovani? Bene, belli, è bello a vedervi, è bello. E con un augurio che la vita è lunga e anche bella. E secondo voi, cioè, i giovani cosa ne pensano degli adulti? Insomma, li contestano un pochino, giustamente, come sempre, è sempre come stata così. Come noi avremmo contestato gli altri, così. La ruota gira, Wow. Va su, giù, su e giù. Non c'è niente.